Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Un giorno, Duroy si alzò di buon mattino e se ne andò al mercato durante l'orario di vendita, dove si procurò per 10 franchi una ventina di pere che erano una meraviglia. Dopo averle ben sistemate in un cestino, per far credere che venissero da lontano, le lasciò dal portinaio dei Voltaire con un biglietto da visita sul quale aveva scritto «Georges Duroy prega umilmente la signora Voltaire d'accettare questo po' di frutta ricevuto stamani dalla Normandia». Il giorno dopo, al giornale, trovò nella cassetta della posta una busta contenente in risposta il biglietto da visita della signora Voltaire, che ringraziava sentitamente il signor Georges Duroy e lo avvertiva che era in casa tutti i sabati. Le si presentò il sabato successivo. Voltaire abitava sul boulevard Malherbe, in una doppia costruzione di sua proprietà, della quale aveva affittato una parte, seguendo il buon sistema economico delle persone pratiche. Nonostante la scioltezza venutagli dall'ambiente parigino e soprattutto dalla sua professione di reporter, che lo teneva di continuo a contatto con alte personalità, Duroy si sentiva un poco intimidito da tutta quella messa in scena all'entrata e da tutte le sale deserte che dovette attraversare. Balbettò, cercando con lo sguardo la padrona di casa. «Signora, mi sono permesso...» Costei gli porse la mano, che lui prese inchinandosi, e disse «Oh, lei è stato molto gentile, e la ringrazio d'essere venuto a trovarmi». Poi gli additò una poltroncina sulla quale, facendo per sedersi e avendo calcolato male l'altezza, cadde di peso. La signora Voltaire rispondeva a tutti con cortesia, calma e indifferente, dicendo quel che voleva dire senza un'ombra d'esitazione, dato che la sua opinione se l'era fatta in anticipo. Era un po' troppo grassa, ma ancora bella, nell'età pericolosa in cui il disfacimento è ormai prossimo. Si teneva su a furia di cure, di riguardi, di igiene e di creme per la pelle. Appariva savia in tutto, equilibrata e ragionevole, una di quelle donne dall'animo ben ordinato come un giardino alla francese, dove si può passeggiare senza pericolo di sorprese e che tuttavia non manca d'un suo fascino. Notò che Duroy non aveva ancora aperto bocca, che nessuno gli aveva ancora rivolto la parola e che sembrava alquanto imbarazzato. E poiché le signore continuavano a discorrere dell'Accademia, argomento a loro caro sul quale amavano dilungarsi, domandò «E lei, signor Duroy, che senz'altro è più informato di noi, lei a chi darebbe le sue preferenze?» Senza esitare rispose «Vede, in queste faccende non baderei tanto al merito, sempre discutibile, dei candidati, ma piuttosto all'età e alla loro salute. Non chiederei i titoli, ma le malattie. Perché gli accademici si sbrighino a morire, bisogna nominarli vecchi e malati». Poiché la sorpresa non scemava intorno a lui, aggiunse «Del resto, anch'io sono come voi, e mi piace molto leggere negli echi di cronaca parigina il decesso d'un accademico. Mi domando subito chi lo sostituirà e preparo la mia brava lista. È un gioco di società, un giochetto molto carino che si fa in tutti i salotti di Parigi ad ogni trapasso d'immortale. Il gioco della morte e dei 40 vecchioni». Le signore, anche se ancora un po' sconcertate, abbozzarono un sorriso, tant'era giusta l'osservazione. Duroy concluse alzandosi «Siete voi a nominarli, e li nominate soltanto per il gusto di vederli morire. Sceglieteveli dunque vecchi, vecchissimi, decrepiti addirittura, e non preoccupatevi d'altro». Quindi, bellamente, si congedò. Come se ne fu andato, una delle presenti osservò: «Bel tipo quel giovanotto. Chi è?» La signora Valter rispose: «Uno dei nostri redattori che per il momento sbriga al giornale soltanto lavoretti spiccioli, ma son certa che non tarderà a far carriera». La settimana successiva fu per lui apportatrice di due avvenimenti importanti. Fu nominato capo degli Echi di Cronaca e invitato a pranzo dalla signora Valter. Vide subito un legame tra i due fatti. La Vie Française era innanzitutto una fabbrica di soldi e il suo padrone era un affarista cui la stampa e il mandato parlamentare servivano soltanto da leva. Facendosi della bonomia un'arma, aveva sempre compiuto le sue manovre sotto la maschera sorridente dell'uomo da bene, ma per i suoi scopi, quali che fossero, non si serviva che di gente da lui saggiata, provata, fiutata. Gente che lui intuiva fina, ardita e arrendevole. Duroy, nominato capo degli Echi di Cronaca, gli pareva come tale un ragazzo prezioso. Gli ispiratori e veri redattori della Vie Française erano una mezza dozzina di deputati cointeressati in tutte le speculazioni lanciate o sostenute dal direttore. Li chiamavano alla Camera la banda di Valter ed erano invidiati perché con lui e grazie a lui dovevano certamente far quattrini. Forestier, redattore politico, era soltanto l'uomo di paglia di quegli affaristi, l'esecutore materiale delle loro volontà. Gli suggerivano gli articoli di fondo che egli andava immancabilmente a scrivere a casa per essere più tranquillo, diceva. Duroy era in piena euforia per la sua nomina a capo degli Echi di Cronaca, quando ricevette un biglietto stampato su cui lesse: «I coniugi Valter pregano il signor Georges Duroy di voler gentilmente pranzare da loro giovedì 20 gennaio». Questo nuovo favore, venuto a cader sull'altro, lo colmò d'una gioia tale che egli baciò l'invito come se fosse stato una letterina amorosa. Poi andò dal cassiere per trattar la grossa faccenda dei fondi. Appena il nostro giovanotto fu a casa, pensò: «Devo cambiare alloggio. Questa stanza ormai non mi basta più». Si sentiva eccitato ed allegro, capace di fare acrobazie, e ripeteva ad alta voce, andando su e giù fra il letto e la finestra: «È la fortuna che arriva! È la fortuna! Devo scriverlo al babbo». A suo padre scriveva di tanto in tanto e le sue lettere recavano sempre viva gioia nella tavernetta normanna lungo lo stradale in cima al costone che domina Rouen e l'ampia vallata della Senna. Di tanto in tanto anche lui riceveva una busta turchina con l'indirizzo a grossi caratteri tremolanti e infallantemente leggeva ogni volta le stesse righe iniziali nella lettera paterna: «Caro figliolo, ti scrivo questa lettera per farti sapere che noi, io e la mamma, stiamo bene. In paese non ci sono grosse novità». In fondo al cuore, le vicende del paesello lo interessavano ancora, le notizie sui vicini, sulle condizioni delle terre e sui raccolti. Mentre s'annodava la cravatta bianca davanti allo specchietto, andava ripetendosi: «Voglio scrivere al babbo, domani stesso. Se mi vedesse stasera nella casa dove sono invitato, povero vecchio, resterebbe a bocca aperta. Porca miseria, fra poco mi farò una di quelle cene come lui non s'è mai sognato in vita sua». E rivide d'un tratto la cucina nera nel retro del locale vuoto, le casseruole che rilucevano gialle alle pareti, il gatto sul camino, col muso al fuoco e in una posa da chimera accovacciata, il tavolo di legno bisunto dal tempo e dalle bevande rovesciate, con una zuppiera fumante nel mezzo e una candela accesa fra due scodelle. Pensò anche: «Una volta o l'altra dovrò pure andare a trovarli». Avendo finito di vestirsi, spense il lume ed uscì. Duroy entrò sicuro di sé nell'anticamera, rischiarata da alte lumiere di bronzo, e consegnò con naturalezza la mazza e il soprabito ai due domestici che gli si erano fatti incontro. Tutte le sale erano illuminate. La signora Walter riceveva nella seconda, la più grande. Lo accolse con uno smagliante sorriso e Georges strinse la mano ai due signori giunti prima di lui, Fermat e La Roche-Mathieu, deputati e redattori anonimi della Vie Française. Poi giunsero i Forestier, lei in rosa, deliziosissima. A bassa voce, presso il caminetto, rimase a parlare con La Roche-Mathieu per 5 minuti buoni. Charles appariva ridotto a un cencio. Era molto dimagrito in un mese e tossiva di continuo ripetendo «Dovrò decidermi a finir l'inverno nel mezzogiorno». Comparvero assieme Norbert de Varenne e Jacques Rival. Poi, da una porta apertasi in fondo alla sala, entrò Walter con due ragazzone alte, fra i 16 e i 18 anni, una brutta e l'altra carina. Duroy sapeva che il principale era padre di famiglia, ma rimase ugualmente stupito. Aveva sempre pensato alle figlie del direttore come si pensa alle terre lontane che non vedremo mai, e poi se le era sempre figurate molto piccole, mentre ora vedeva delle donne fatte. Ne rimase un po' scombussolato, come se gli avessero cambiato le carte in tavola. Queste gli porsero la mano, l'una dopo l'altra, finite le presentazioni, e andarono a sedersi a un tavolinetto che, senza dubbio, era riservato a loro, e lì si misero a rimestare in un mucchio di spagnolette di seta in un cestino. S'aspettava ancora qualcuno, e tutti erano silenziosi, presi da quel lieve imbarazzo che precede i pranzi fra gente che non si trova nella stessa atmosfera spirituale dopo le differenti occupazioni della giornata. Duroy, tanto per far qualcosa, s'era messo a guardare le pareti e Walter, accortosene, gli disse da lontano, con l'evidente intenzione di dar valore alle sue cose, «Sta guardando i miei quadri?» Duroy sorrideva, approvando estasiato, «Delizioso! Delizioso!» Si interruppe di botto, avendo udito alle spalle la voce della signora de Marelle entrata proprio in quel momento. «Buonasera, belle amie!» si sentì dire da lei ad alta voce. «Non mi riconosce?» Fu una cena banale e fatua, una di quelle tavolate dove si parla di tutto e di nulla. Duroy era seduto tra la figlia maggiore del principale, quella brutta, Rose, e la signora de Marelle. La vicinanza di quest'ultima lo turbava un poco, quantunque Clotilde non apparisse per nulla imbarazzata e parlasse con la solita spigliatezza. Rimase sulle prime impacciato, incerto, come un professore d'orchestra che ha perduto il ritmo, ma a poco si riprese. E fra i due cominciò un fitto incrociarsi d'occhiate che si interrogavano, si intrecciavano, quasi con la stessa sensuale intimità d'una volta. D'un tratto gli parve di sentir qualcosa sotto la tavola sfiorargli il piede. Avvicinò adagio la gamba a quella della signora de Marelle, che al contatto non si ritrasse. Tacevano entrambi, volti in quel momento verso gli altri commensali. Duroy, col cuore che gli batteva, spinse ancora un poco il ginocchio. Gli rispose una lieve pressione. Allora capì che i loro amori stavano per ricominciare. Tornato in salotto, Duroy si riavvicinò alla signora de Marelle e, guardandola negli occhi, le chiese «Posso riaccompagnarla stasera?» «No? Perché?» «Perché La Roche-Mathieu, mio vicino di casa, mi riaccompagna sempre lui fino al portone, tutte le volte che pranzo qui. Quando potrò vederla? Venga domani a desinare!» E si separarono senza dirsi altro. Duroy non si trattenne molto, trovando monotona la serata. Per le scale raggiunse Norbert de Varenne, che stava uscendo anche lui. Il vecchio poeta lo prese a braccetto, non temendo più in lui un rivale alla Vie Française, dato che la loro collaborazione avveniva in campi diversi, lo trattava adesso con paterna bonomia. «Beh, fece. «Perché non m'accompagna un pezzetto?» Duroy rispose. «Con piacere, caro maestro!» E s'avviarono per il boulevard Malherbe, passo passo. Parigi era semideserta quella notte. Una notte rigida, una di quelle notti che diresti più vaste delle altre, nelle quali le stelle sono ancora più in alto e l'aria sembra recare nelle sue gelide zaffate un effluvio proveniente d'oltre gli astri. Per un po' i due non aprirono bocca. Poi Duroy, tanto per dir qualcosa, mormorò: «Quella Roche-Mathieu mi par molto intelligente e colto». Il vecchio poeta rispose: «Lei trova?» Il nostro giovanotto esitò sorpreso. «Beh, sì, del resto passa per uno degli uomini più dotati della Camera». «Sarà. Nel regno dei ciechi ogni guercio è re, ma dia retta, è tutta gente meschina quella lì, con la mente limitata da due muri, il denaro e la politica. Sono degli scorzoni, amico mio, coi quali è impossibile intavolare un discorso, specie su quanto ci sta a cuore. La loro intelligenza posa sulla melma, o meglio, sugli spurghi, come la Senna d'Asnières. Ah, com'è difficile trovare un uomo d'ampie vedute, capace di darti la sensazione del vasto respiro che lungo la costa vien dal largo. Ne ho conosciuti alcuni, ma sono morti». Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.